la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:32 primi e 48 secondi, partiamo un po' in ritardo oggi qui in diretta da Radio 24 dei studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it per proporre temi, trasmissioni, domande, quesiti, critiche, rispondo a tutti. Una informazione di servizio che è anche un annuncio, perché l'informazione di servizio si deve agli aggiornamenti, ogni edizione del GR lo faremo, ma faremo anche uno speciale qui per Radio 24 dalle 18 alle 18:30 per fare il punto purtroppo di questa tragedia dello scontro tra due treni nel Barese, tra Andria e Corato. Fino al bilancio è di 20 morti estratti, si teme che purtroppo la cifra possa peggiorare, oltre 30 i feriti, un treno di pendolari e studenti universitari in un tratto tra Andria e Corato di una ferrovia in Puglia che a gestione privata, è una società che è nata alla fine degli anni 30 addirittura, pensate, che esercisce 83 chilometri di trasporto ferroviario locale in Puglia, di questi 40 sono doppio binario, 43 sono a binario unico. Naturalmente bisognerà capire che cosa ha reso possibile questo incidente, poiché nei tratti a binario unico i convogli aspettano in stazione il passaggio dell'altro. In ogni caso il bilancio sarà molto molto molto grave purtroppo, speriamo che sia limitato. Attualmente io mi fermo qua, vi rinvio allo speciale tra 18 e 18:30, oltre che naturalmente agli aggiornamenti nei nostri GR, e naturalmente i colleghi della redazione possono interrompermi con breaking news per ogni eventuale evenienza, per informarvi di questo terribile disastro che è avvenuto oggi e il cui bilancio non è ancora purtroppo definitivo. Secondo aggiornamento di servizio, la borsa italiana è quella che continua ad andare a quest'ora meglio di tutto Europa, per via del termine dell'Ecofin stamattina e delle dichiarazioni tutto sommato positive che hanno riguardato le banche italiane. Il ministro Padoan ha continuato a dire alla fine del vertice di non immedesimarsi, di non identificarsi nella lettura troppo a toni negativi fatti dalla stampa italiana internazionale del sistema bancario italiano, e ha confermato che la trattativa va avanti con la Commissione europea. Non c'è niente di nuovo né alcuna decisione assunta dall'Ecofin, la trattativa andrà avanti sui prezzi di cessione dei crediti erogati delle banche, da cui quindi calcolare quale sarà l'esigenza di ricapitalizzazione a seguito delle svalutazioni in Montepaschi entro la fine del mese. La Merkel ha dichiarato anch'essa che senza troppe preoccupazioni di guardare a questa trattativa con la Commissione europea. Più invece ficcanti e taglienti i commenti di altre ministre dell'Ecofin, in particolare il ceco e lo slovacco, che hanno uno twittato e uno dichiarato di considerare il problema della condizione delle banche italiane, addirittura nel caso del ministro ceco Banis, più serio come minaccia per l'Europa della stessa Brexit. Comunque i mercati stanno andando bene e da questo punto di vista attesa per la Commissione. I giornali italiani in sintesi hanno un po' troppo enfatizzato per fine settimana questo appuntamento dell'Ecofin come decisivo, la vera trattativa è alla Commissione. Di che cosa parliamo oggi invece? Io vi invito a telefonarci all'800 24 00 24, di un tema che abbiamo visto subito stamattina ha suscitato molti interventi dei nostri ascoltatori, sms, lettere eccetera eccetera, ed è relativo a quello che alcuni giornali italiani hanno pubblicato oggi in relazione a una proposta: fa diventare i robot, l'automazione nelle fabbriche, nei luoghi di produzione, persone, e far loro pagare ovviamente tasse e contributi. Si tratta di una, il cuore della proposta, di una eurodeputata lussemburghese del gruppo dei socialisti e democratici, si chiama Mehdi Delvaux, e è allo stato attuale solo un progetto di relazione. Il progetto di relazione in senso tecnico al Parlamento europeo è il primo passo in vista di una futura regolamentazione, però il cuore del problema è, poiché l'automazione tra virgolette minaccia. Gli occupati di oggi diventa sempre più estesa, allora bisogna che lo Stato, gli Stati nazionali ci guadagnino sopra per finanziare il welfare. Siete d'accordo con un'idea di questo tipo? L'esperienza che abbiamo avuto stamattina è che la maggior parte era d'accordo. Però prima di presentarvi gli ospiti, a cui lascio poi tecnicamente approfondire gli aspetti di questa questione, lasciate che io vi dica che questa idea mi fa un po' sorridere, sono del tutto contrario. È un'idea che convive con l'industrializzazione, questa dell'avversione all'automazione, alle macchine. Pensate che la storia del movimento sindacale operaio, le trade unions britanniche, fu preceduta da 35 anni in cui di insurrezioni, talvolta contenute, ma negli anni tra il 1811 e il 1815 molto estese, contro i telai meccanici, e a farsene promotori furono proprio coloro che avevano, per una vecchia regolamentazione addirittura medievale, la facoltà di fare maglie e calze di lana e cotone a casa e non negli stabilimenti produttivi. Il loro idolo divenne Ned Ludd, figura mitologica, non si sa neanche se sia mai esistita davvero, che nel 1678-79 insorse per primo distruggendo un telaio. La faccio breve: l'ondata di attacchi alle fabbriche contro l'automazione che leva il lavoro agli operai divenne così forte tra 1811 e 1812 che fu emanata addirittura una legge in cui si comminava la pena di morte. Pensate un po' per chi attaccava e manometteva i telai meccanici, con insurrezioni così vaste che alla fine, quando per la prima volta, unica volta nella storia britannica, fu assassinato un primo ministro in corridoio della Camera dei Comuni, cioè in Parlamento, fu assassinato da un finanziere che era fallito e non c'entrava niente con questa insurrezione, addirittura ci furono vaste manifestazioni di massa di soddisfazione in Gran Bretagna. Di lì poi, nei decenni, il cartismo e la nascita delle trade unions. Però è da allora che l'avversione alle macchine costituisce un punto di eterna polemica del mondo del lavoro, smentita dal fatto che l'automazione che cosa crea? Nel breve, dice, disoccupati, sì, ma l'abbassamento del costo di produzione, l'aumento dei margini delle imprese, ne fa crescere gli investimenti, produrre beni a un prezzo più basso e quindi gli stessi lavoratori a reddito più basso possono comprarne in maggior numero, e soprattutto moltiplica l'occupazione in settori nuovi rispetto a quelli tradizionali. La percentuale di occupati e di partecipazione al mercato del lavoro è enormemente più elevata nei decenni rispetto ai tempi in cui c'erano le lavorazioni a casa. E così, quindi, la produttività, gli investimenti, la creazione di nuovi settori di occupazione e produzione e dei servizi che prima non esistevano, nella storia ha classicamente smentito da sempre, malgrado poi i momenti di crisi ciclica, anche pesantissimi come dopo il 29, come quello che attraversiamo dopo il 2011 in Europa, ma in un bilancio complessivo ha totalmente smentito questa preoccupazione. Ma queste sono le mie opinioni, ovviamente. Sentiamo cosa ne pensano invece di questa idea, tassare i robot e dell'avversione all'automazione, i nostri ospiti di oggi. Da una parte un nostro esperto fiscale di riferimento, perché insegna diritto tributario all'Università di Trieste, il professor Dario Stevanato, grazie di essere con noi. Grazie a lei, buonasera. E dall'altra Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena ed è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio Carlo e grazie di essere con noi. Ciao, buonasera. Allora Stevanato, che dice lei dal punto di vista tecnico di questa idea? Allora, io ho letto la proposta, di base c'è quello che lei diceva un attimo fa, cioè il timore che l'avvento, diciamo, dell'intelligenza artificiale dei robot porti a sostituire lavoratori con macchine, che però è quello che avviene da sempre dall'industrializzazione, ma si tema che questa volta ci siano delle perdite di lavoro secco. Allora, la risposta che viene data in questa risoluzione è di due tipi: da un lato ci si preoccupa delle responsabilità sul piano civilistico dei danni creati da macchine sempre più autonome e indipendenti dall'uomo, e dall'altra si immagina un nuovo sistema di tassazione. Diciamo, da un lato vi è l'idea di ipertassare, di tassare di più quelle imprese che impiegano più macchine, non è ben, diciamo, sono pochi spunti, ma dietro forse si potrebbe vedere la vecchia idea di una discriminazione qualitativa dei crediti, cioè quindi chi ha maggiori facilità a produrli attraverso macchine anziché uomini merita di essere o può essere tassato di più. Dall'altra vedo un uso extra fiscale dell'imposta, cioè una sorta di rimedio alle esternalità negative che le imprese che impiegano macchine producono, cioè espellendo dal ciclo produttivo lavoratori in carne e ossa, queste imprese se ne dovrebbero poi far carico attraverso maggiori tributi che non a caso andrebbero a finanziare, se ben capisco, un general basic income, cioè in questa proposta si cita espressamente l'idea del reddito di cittadinanza. È una cosa per certi aspetti preoccupante perché si prefigura un futuro in cui ci saranno masse di persone non in grado di accedere a nessun tipo di lavoro remunerato e che dovranno essere sussidiate da un'imposta prelevata da imprese che impiegano macchine. Questa è la prima parte della, secondo me, della riflessione. Poi ce n'è un'altra che riguarda le figure di robot stessi, cioè la raccomandazione della parlamentare arriva a ipotizzare diciamo una nuova natura giuridica, uno status legale dato alle macchine, dato ai robot. I robot diventerebbero delle persone elettroniche, come tali anch'esse suscettibili di essere tassate. Qui veramente ci si può chiedere come. L'unica risposta che secondo me si intravede è quella che attraverso la creazione di una sorta di robot che diventa soggetto di diritti e quindi il possibile titolare di un patrimonio che gli arriverebbe da contributi dati dai produttori, da liberalità e da addirittura da corrispettivi di servizi che lui presta, come se si trattasse di una persona in sostanza. Ecco, su questo patrimonio non solo immagino andrebbe a esserci la possibilità di un risarcimento da parte delle vittime di eventuali danni collaterali dell'operare delle macchine, ma altresì a questo punto immagino un prelievo fiscale su un patrimonio che si autonomizza rispetto a ogni altra persona. Ma io non lo so, le chiedo, ma scusi, ma noi ci siamo inventati come imponibile fiscale i beni strumentali di impresa nella manifattura imbullonati al suolo come se fossero parte della superficie immobiliare da tassare nell'IMU e che abbiamo questa imposta, l'IRAP, in cui diversi fattori della produzione concorrono a un imponibile di un'imposta che si paga anche quando non si produce reddito nell'impresa. Non abbiamo già avuto evidenti dimostrazioni in ambo i casi che questa roba frena la crescita e l'occupazione? Sì, certamente questo è vero, infatti diciamo, mi chiedo quale sia la lungimiranza di una proposta di questo tipo rispetto ai procedimenti di innovazione che credo siano benefici per tutti, però poi c'è anche un'altra cosa da dire, che questa proposta va in netta controtendenza rispetto alle legislazioni attuali. Ricordo che tutti gli stati membri, da ultimo anche l'Italia, hanno introdotto il cosiddetto regime di patent box, è un regime cioè che detassa o defiscalizza dei proventi connessi alla ricerca, allo sviluppo, alla creazione di brevetti, di intangibles in genere. Quindi qui si va veramente in controtendenza, in cui invece si dice, in modo totalmente diverso da quello che oggi viene fatto, no, tassiamo di più le imprese che di più intervengono nell'innovazione tecnologica. Va bene, l'impostazione è ovvio, politico, culturale della parlamentare è chiara, è una sinistra redistributrice. Io sono curioso di vedere come la pensano i nostri ascoltatori. Adesso abbiamo un minuto di informazione sul traffico e poi con il professor Lottieri mi interessa capire, ma questa estensione dell'attribuzione della titolarità di un vero e proprio diritto alla soggettività giuridica alle macchine, nel mentre le si avversa, che cos'è? La consapevolezza che l'intelligenza artificiale arriva già oltre i limiti dell'autonomia decisionale e operativa rispetto all'essere umano? Oppure è semplicemente l'estensione a questo di una vecchia concezione tassa e spendi? Tra un minuto sentiamo cosa ne pensa il professor Lottieri. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta. I robot diventeranno persone, pagheranno tasse e contributi, propone un europarlamentare socialista lussemburghese. Abbiamo sentito il parere del professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario. Che ne pensa Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato a Siena? Ma io non mi soffermerò molto su questa idea, che trovo davvero lunare, diciamo di attribuire una personalità, ecco, ai robot. È chiaro che la nostra storia del diritto si è inventata la personalità giuridica, ma la personalità giuridica di un'impresa, di un'associazione, rivia sempre ad uomini. E peraltro io ho sempre avuto grandi perplessità di fronte all'idea invece di estendere questa idea della personalità agli animali, ai paesaggi, alle opere d'arte. No, credo che invece dietro questa idea, al di là appunto di questa di immaginare i robot come persone, c'è un segnale forte che riguarda l'Europa, l'Occidente in generale, ma l'Europa in particolare. Le intenzioni sono chiare, questo è un sistema ormai vicino al fallimento per il debito pensionistico e debito pubblico, e si cerca naturalmente di raccogliere soldi dove possibile, in una logica anche che ormai è sempre più fortemente protezionistica. I dibattiti sono molto chiari al riguardo. Qua si ritiene di poter salvare l'occupazione, immaginare un futuro ai lavoratori proteggendoli. Sono discorsi che si diffondono in fasi appunto difficili e che hanno più successo in queste fasi, ma questa è una di quelle. Se guardiamo cosa è successo nel dibattito pubblico dopo la Brexit, come con grande facilità da parte della leadership europea si è immaginata l'ipotesi di chiudere l'Europa, no? Di fronte ai commerci, ai beni, ai servizi del Regno Unito, non ci si stupisce se adesso si vuole proteggere il lavoro di fronte al rischio che sia in competizione con le macchine, che fa veramente sorridere. Sono evidentemente i moltiplicarsi dei robot un altro modo di lavorare che appunto, come giustamente dicevi prima, aumenta la produttività, migliora le condizioni del lavoro, ma nelle fasi di difficoltà e di crisi di una società si può arrivare anche a pensare cose così strane. Oimè, io condivido molto quello che ha detto Carlo Lottieri e condivido anche quello che ha detto Stevanato. Immagino che molti di voi invece no. Sentiamo un pochino di ascoltatori. Canio da Roma, prego. Sì, ecco. Diciamo, sì, buonasera. Buonasera. Giannino. Questa è un'idea che circa 30 anni fa, poco più, poco meno, aveva già avuto Bertinotti, sì, ed espressa in varie occasioni. Corretto, espressa. Sì, è verissimo. E quindi cioè non capisco la novità del momento. Perché qui c'è l'idea di iniziare un iter al Parlamento europeo, ecco, questa è la novità istituzionale, insomma, non era solo una buttata lì, ma è vedere se al Parlamento europeo questa proposta ha un seguito. Ma lei come la vede? Io la vedo molto positiva, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico, molto positiva. Se dovesse essere messa in atto, sicuramente il sistema ne trarrà vantaggio, sicuramente, sia il sistema pensionistico, sia le aziende penseranno un po' di più agli uomini e un po' di meno alle macchine. Tanio, le devo dire che, ma questo già stamattina ne abbiamo avuto conferma, molti la pensano esattamente come lei, quindi gliene do atto. Roberto, dalla provincia di Varese, come la pensa lei? No, è assolutamente il contrario, perché all'inizio pensavo fosse una battuta, nel senso che fosse un robot che andava a pagare le tasse al posto mio e mi andava anche bene, ma ho capito che non era così. No, quindi no, in realtà non può andare, perché se noi tassiamo ciò che è l'avanguardia, l'alto valore aggiunto, l'alta tecnologia, per sovvenzionare la bassa tecnologia, l'alto basso profitto, insomma tutto ciò che è morto, noi ci diamo un'unica strada, che è quella della decadenza, no? Che è quella del declino. Allora Roberto, del declino, tanto io sono d'accordo, soprattutto in un paese che ha perso 30 punti di competitività dal 95 a oggi rispetto alla Germania, più di 20 negli anni dell'euro, vale ancora a maggior ragione. Io però devo aggiungere una mia considerazione. Le preoccupazioni che ci sono quando ci sono i tassi di disoccupazione superiori all'11%, come oggi d'Italia, e quelli purtroppo enormemente più elevati dei giovani, sia pur falsati dal fatto che in pochi partecipano alla ricerca del lavoro dei giovani, imporrebbero, per chi la pensa come noi, cioè per chi è un produttivista, vuole più valore aggiunto, perché è convinto che così avremo più occupazione, di dire che abbiamo una colpa. Perché in un paese in cui non c'è un sistema efficace ed efficiente di matching, di ricollocazione tra domanda e offerta del lavoro quando si perde il reddito da lavoro, e in Italia non c'è, perché è il capitolo inattuato del Jobs Act, e tutto quei vecchi uffici provinciali del lavoro che non servono a un cazzo di niente tranne che a dare uno stipendio a chi ci lavora, purtroppo. Ecco che lì la gente, come dice Canio, dice: noi dobbiamo mettere gli uomini al centro e ne abbandoniamo per strada troppi. che secondo me ha una soluzione nelle politiche attive per il lavoro, ma noi purtroppo lì non è che zoppichiamo, siamo proprio totalmente inadeguati e insufficienti. Sentiamo cosa pensa Giuseppe dalla provincia di Salerno. Salve, buonasera, io farò un intervento velocissimo, sì, perché sono in auto, sto guidando. No taxation without representation. Se li tassiamo li facciamo anche votare. Secca idea, a quel punto mi preoccupa che i partiti si metteranno ad hackerare e a fare i programmatori, però. Però sarebbe interessante vedere alle RSU che cosa votano, se votano la FIOM o la FIM. No. Aureo principio per chi è liberale. Ancora Alessandro da Macerata, brevissimamente. Alessandro. Sì, velocemente. Noi abbiamo un processo industriale sempre più automatizzato e un settore servizi strutturalmente in carenza. Quindi io lo condivido che si deve spostare nel settore dei servizi. Abbiamo sempre meno vigili del fuoco, abbiamo carenza di medici, di infermieri, cioè non è il reddito di cittadinanza, no, spostare, cioè da una parte avere questi introiti per spostare nei servizi che oggi purtroppo strutturalmente sono carenti. Però quindi lei non è contrarissimo, per così dire, ecco, ne fa una questione di potenziamento di settori necessari e a maggiore intensità di manodopera, sia pure specializzata. Va bene, come vedete non è un sondaggio, ma come immaginavo tanti sono a favore. Grazie ai nostri ospiti, professor Stevanato, professor Lottieri. Vi rinvio adesso al Focus Economia e dopo dalle 18 alle 18:30 lo speciale, purtroppo, sullo scontro tra i due treni del Barese.